Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Le comete sono stelle con una coda luminosa. Il roseto è un giardino di rose. Un abate è il superiore di un monastero. Sandra allatta il bambino. Giovanna è una mia carissima amica. La sua è stata una conferenza alata. È piccola, va ancora all'asilo. Il rossetto è un cosmetico per labbra. In caso di necessità, ammicca a Carlo. È incorreggibile, commette sempre gli stessi errori. Paolo abbatte un albero. All'assillo delle malattie, è ipocondriaco.